Stanco sul punto di smettere. Stanco degli insulti, sto per cedere. Non so come, ma mi rialzo, avvicinandomi al grande salto. Tante fatiche per mettere una tarma, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe, ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Tante fatiche per mettere una tarma, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe, ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Ecco la determinazione, punto forte di molte persone, che se si fissano su un risultato non si fermano finché hanno un po' di fiato. Senza scorciatoie, come nei cartoni fa il cattivo. Devi essere leale o non ha senso fissarsi un obiettivo. Con determinazione tu segui il tuo sogno. Se sei insultato grida non me ne vergogno. In ciò che tu vuoi credici davvero, non restare solo davanti a uno sfondo nero. Fatica a testa alta, gronda pure di sudore. Fai capire che ciò che fai tu lo fai con tutto il cuore. Prova, come cerco di stare su sta base. Mi dicono migliorerai, è normale. Tante fatiche per mettere una tag, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Tante fatiche per mettere una tag, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Vado avanti, passo dopo passo, non importa se sono stanco. No, io non mi rassegno, mi viene una rima e me la segno. Con determinazione la canto, non mi importa se mi sbaglio. Tanto ho iniziato presto, di migliorare ne avrò il tempo. Con determinazione mi accompagna per la vita, la determinazione che mi accompagna fin dalla mattina. Lei che mi è vicina, anche se parlo in rima o mentre gioco a calcio o mi preparo al grande salto. Salto di qualità, quando su un palco canterò la verità. Senza lei io sarei diverso, mi sarei arreso, non avrei scritto questo verso. Senza questo verso mi sarei perso. Tante fatiche per mettere una tag, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Tante fatiche per mettere una tag, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Ultimi secondi per convincerti più che mai, riempi le tue azioni di convinzioni o rischi guai. Non aver paura di ciò che gli altri pensano o parlano dopo stronzate che si bevono. E buttati come ho fatto col freestyle, provo di rimpianti ti riempirai. Pensa positivo come Giova, tanto pensare male a te non giova. Per il tuo bene, quello dei tuoi amici, anche nelle difficoltà state vicini. Aiutali come vuoi, quando quanto puoi. Non dimenticare ogni loro azione fatta con determinazione. Ascolta sti consigli, impara dagli sbagli. Nikos come vivere ti vuole suggerire e te lo esprime in rime. Tante fatiche per mettere una tag, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Tante fatiche per mettere una tag, troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe ma con determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Ero stanco sul punto di cedere, mi continuo a dire che devo smettere. Ti ignoro, con determinazione mi rialzo. Cazzo insulti, hai paura del mio grande salto?